5i. Ascolta e rispondi. Quando vai a casa? Ci vado alle 7. Vai spesso a Milano? Sì, vado una volta al mese. Sono già saliti in treno? Sì, ci sono appena saliti. Andrete in vacanza in Sardegna? Sì, ci andremo a luglio. Tornerete in albergo prima di partire? No, non ci torneremo. Resti in ufficio domani? Sì, ci resto tutto il giorno.